30. Montreal, 5 settembre 1775. Onorato Sir John, i messaggeri che ho inviato da Oswego vi avranno ormai dato notizia della morte di mia moglie e della creatura che portava in grembo. Una perdita incommensurabile per me e un segnale nefasto per la spedizione, che, ne sono convinto, da questa tragedia ha riportato un'indelebile aura di sventura. La mala sorte, infatti, non ci ha più abbandonati. Lasciate che vi illustri i fatti degli ultimi mesi e giudicate voi stesso. Siamo giunti in Canada alla metà di luglio con soli 200 guerrieri, ricevendo un'accoglienza piuttosto fredda da parte del governatore, il generale Carleton. Della sua antipatia per la nostra famiglia eravamo già a conoscenza, ma non ci aspettavamo che scoraggiasse un'iniziativa atta a portargli soccorso. Si trova infatti sprovvisto di truppe, avendole inviate di rincalzo al generale Gage a Boston, e sotto minaccia di un'invasione da parte dei ribelli Whig. Ho tentato di spiegare a Sua Eccellenza che il generale Gage ha pensato bene di ricambiare inviando noi, con gli irregolari indiani, in appoggio del Canada, ma l'argomento non ha ottenuto su di lui alcun effetto. Tuttavia, ha consentito a confermare agli indiani le promesse fatte a Oswego dal sottoscritto in cambio dell'appoggio alla nostra causa, vale a dire il risarcimento da parte della corona di ogni territorio perduto in caso di conflitto con i Whig. Abbiamo avuto premura di fargli contrarre l'impegno davanti a un concilio di tribù canadesi, indetto per l'occasione dal nostro fidato Daniel Klaus. Tra i circa 2000 convenuti, le promesse di Carleton hanno suscitato grande impressione, ma si sa che l'entusiasmo degli indiani è di breve durata se non trova sbocco in un agire rapido. Tuttavia, la diffidente titubanza del governatore nei confronti degli indiani si è rivelata un ostacolo difficile da sormontare più di qualsiasi rapida o stretto passaggio incontrato per arrivare qui. Non si fida degli indiani e non vuole che combattano da soli, per timore di perderne il controllo e di essere accusato d'efferatezza. È ferma volontà di Sua Eccellenza che i nostri guerrieri combattano insieme alle truppe regolari in reggimenti misti, sotto il comando di ufficiali britannici. L'ordine ricevuto è stato di tenere la posizione e attendere l'offensiva dei ribelli o l'arrivo di nuovi contingenti dalla madrepatria. Le conseguenze sono presto dette. Una lunga estate di inattività è stata più che sufficiente a fiaccare il morale e a fare ripartire per le proprie case la maggior parte dei guerrieri. A questo bisogna aggiungere che i ribelli Whig non hanno perso tempo nel tentare di corrompere le tribù, comprando a peso d'oro la loro neutralità. I Caughnawaga si sono lasciati convincere per 300 sterline. Più grave ancora è che una settimana fa è giunta al nostro accampamento una delegazione Oneida, consigliando ai guerrieri di firmare la pace con i ribelli di Albany e riferendo che i Mohawk di Fort Hunter l'avrebbero già fatto. Se ciò corrispondesse a verità, la nostra valle e i nostri possedimenti sarebbero esposti a un grave rischio, senza alcuna tribù indiana disposta a difenderli, e voi e la vostra famiglia sareste in pericolo. Con il cuore greve per queste notizie stavamo risolvendo di tornare indietro in gran fretta, quando ci ha raggiunti la notizia che i ribelli hanno ripreso l'avanzata verso nord. Da Fort Ticonderoga risalgono il lago Champlain. Li guida Montgomery, che ricorderete come ufficiale del generale Amherst nella guerra franco-indiana. È irlandese come noi. Sir William, vostro padre, lo conosceva bene e oggi sarebbe sorpreso ritrovarsi a combattere contro un vecchio commilitone. Ancora non sappiamo quanti uomini Montgomery porti con sé, ma la notizia ha spinto il governatore Carleton a mobilitare gli indiani, purché sotto la responsabilità di un ufficiale. Si è offerto Butler. Mentre vi scrivo, conduce i guerrieri oltre il San Lorenzo, fino all'avamposto di Fort St. John, il primo ostacolo che i ribelli troveranno sulla loro strada. I nostri Mohawk sono con lui. Inutile dire che il morale dei membri del dipartimento è piuttosto basso. I combattenti a nostra disposizione sono pochi, non si ha ancora notizia di rinforzi dall'Inghilterra ed è fuor di dubbio che Montreal non resisterebbe a un attacco in forze. Il nostro apporto alla difesa del Canada è tutt'altro che determinante. Ho quindi intenzione di adoperarmi per organizzare il ritorno non appena sarà possibile, poiché l'incertezza per ciò che potrebbe accadere a casa ci lascia in balia di una profonda angoscia. Vi prego di inviarmi notizie dalla colonia quanto prima. Nella speranza di ricongiungerci presto e augurandovi ogni bene, rimango il vostro devoto cognato, Guy Johnson.